avevamo piume azzurre e velenose, una produzione dei Giullari di Gulliver, registrato al Centro Giovani di Chiasso domenica 19 marzo 2006 nell'ambito della Settimana contro la Guerra, a cura di www.scatolanera.ch. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship. Inizio. Guardo la luce attraverso la serratura. Lontano in cassetto, una fotografia mi guarda assente. Una bambina dolcemente mi guarda, occhi neri, un poco impauriti dalla macchina fotografica. Un cappello grande di bimini e da un solco di esso scorgo capelli color cenere. Mi fa presumere che porta un taglio corto. Sembra che voglia un abbraccio. Le sue mani nascondono un po' di vergogna. In questo mondo sembra piccola e banale. Non ha mai guardato i cartoni animati. Labbra grandi e ben disegnate, tirate da un falso e perplesso sorriso. Intorno a lei spirito di sopravvivenza. Veste con un pullover rosa e su di esso un pagliaccio, con un grande cappello viola. Lo diverte col buffo di segno. Tra le sue labbra il gusto rigazzosa. Davanti a lei una bottiglia verde aperta di spray. Indosserà mille vesti e ogni volta si perderà nel personaggio che deve impersonare. Poi un giorno quella bambina guarderà nella penombra della serratura e scorgerà che in quel cassetto c'è una fotografia. Assente sembra aspettarla. Occhi neri. Were absent, who those who live for democracy in general. It's urgent, it's an emergency to speak about those who are absent. It's an urgent to those who are absent. È democrazia fare sempre campo storto. È la democrazia pregare sempre dalla parte dei potenti. Quelli che vivono senza la libertà. La libertà generale. È urgente parlare della libertà. È tempo di parlare di quelli che hanno dalla parte dei potenti. È importante in Italia viene sempre calpestata. Quelli che vivono senza democrazia. La libertà in generale. È urgente parlare degli assenti. È urgente parlare della libertà. È tempo di parlare di quelli che hanno torto. È importante interrogare gli assenti. Quelli che vivono senza democrazia. In generale. La democrazia viene sempre calpestata. La democrazia pende sempre dalla parte dei potenti. È urgente parlare della libertà. È tempo di parlare di quelli che hanno torto. È urgente parlare degli assenti. La libertà fa un culo. La democrazia pende sempre dalla parte dei potenti. È urgente parlare degli assenti. È tempo di parlare di quelli che hanno torto. La democrazia pende sempre dalla parte dei potenti. È urgente parlare degli assenti. È urgente parlare della libertà. La democrazia pende sempre dalla parte dei potenti. La democrazia viene sempre calpestata. Chi suona? Ma è una musica. E ogni gesto forse risponde a un suono. Anche un braccio o un braccio che si alza e camminare. Capita di commuoversi di fronte a due che parlano e si guardano. Più spesso è cera, timpani murati. C'erano dei sentieri persi nell'erba dei prati. C'erano dei sentieri persi nell'erba dei prati, dolci, fra le paludi o tra le pietre. C'erano pochi colori sbiaditi tra i sassi. C'era con ramo spezzato, saettava come una freccia, che la felce d'un tratto si incurvava su uno stagno. C'erano vaghi segni ai nostri passi. Treni in partenza, ancora. Sono giorni così, senza ragione o pietà. Solo convogli, spariti troppo in fretta. Uccelli morti, stesi sulle rotaie. Melassa. A volte sembra melassa questo tempo che riduce ogni cosa a fanghiglia privata. Per salutarne, uno più amico degli altri, abbiamo detto ciao alla pozzanghera gelata, pochi mesi fa. Come ogni cosa ricade e si sfà, come ogni foglia piange sul suo destino, e poi si smorza e si perde in gioiosa apatia. E adesso, se viene crudele una primavera bellissima che inturgida le lamburde, gonfia le traversine, e se l'annuncia un alto volo di poiane, tu fai lo stesso un sogno sibilante. Ma quante storie si intrecciano e vana appare ogni nostalgia di un'altra luce. C'erano sotto i sassi chiodi, tizzoni, un ragno, c'erano lame affilate e paesaggi di selce, c'era che un volto amato strisciava nella polvere che i passi riportavano indietro. Persi nei giorni andati c'erano campi neri. Speranza? Forse, se resta tempo e forza, soprattutto la pazienza di ascoltare ogni voce. No i tak, w końcu musieliśmy się zdecydować, czy mam jechać, czy nie. Nie chcieliśmy się rozstawać, ale zaszła taka konieczność. Zdecydowałam, że pojadę. Na początku bardzo się bałam, ale równocześnie byłam tak cholernie ciekawa, jak sobie poradzę. No i tak, pojechaliśmy na granicę. Nie było łatwo, nie było, ale udało się. Znalazłam przejazd aż do samych Włoch, niedaleko Monfalcone. Połowa drogi zagwarantowana. Pożegnanie z Adrianem było długie i smutne. Denerwował się bardziej ode mnie. Droga była długa i powolna, bo ciężarówka była tak załadowana osobówkami, że jechaliśmy bardzo, bardzo powoli, może 60 km na godzinę. W jednej z nich spędziłam noc i nie obeszło się bez propozycji seksualnych ze strony kierowcy, ale ostro mu odpowiedziałam, że nie i koniec. Może mnie nawet tu zostawić, jak chce? Ale odpowiedź brzmi nie. Io mi chiamo Violetta e vengo dalla Polonia. Nazywam się Violetta i pochodzę z Polski. Questa notte ho fatto un sogno, all'incontrario. Ho sognato una città piena di verde. Il verde cresceva dappertutto e gli alberi crescevano addirittura sugli alberi. Era tutto così verde che i semafori non stavano mai fissi sul rosso o sull'arancione, perché si sentivano in imbarazzo. Stavano fissi sul verde. Ma non c'erano macchine nel sogno all'incontrario. La città era perfetta e l'aria pulita. I bambini respiravano pieni polmoni. I bus non puzzavano di gasolio ed erano tornati i tram elettrici. La gente salutava sorridendo e faceva le capriole nel prato del parco. lo squalo che le sfiora disattento con la pinna dorsale nemmeno se ne accorge, ma ci sono. Vieni, dobbiamo andare, tanto qui non c'è più nulla da fare. Buonasera, signor Colucciorino. Mi farete una domanda. Qual è, a suo avviso, il più strano dei pesci? Ce lo descriva, per favore. Un pesce del genere non viene immediatamente mangiato dai suoi vicini? Da sempre sono un pesce vivace e di buon umore. Ultimamente però sto nuotando in cattive acque e mi sembra di andare sempre più a fondo. Ho l'impressione di fare continuamente buchi nell'acqua, così che il futuro mi appare un abisso cupo di cui a volte non vedo il fondale. Frequento poco l'altra fauna ittica, ma ho ancora una possibilità per non abboccare all'amo di questa condizione marina. Posso dire senza ombra di dubbio che la cosa migliore della mia vita è la musica, che mi permette di non affondare completamente e di restare in questo a galla in questo mare di guai. Ho una buona cultura musicale e sono un grande ascoltatore. Con il sax riesco a sfogare la mia rabbia repressa e a gratificarmi personalmente, perché quando suono mi sento quasi sempre meglio. Forse penserete che sono un cavalliccio marino un po' suonato, ma a volte con il mio sax sono di nuovo sulla cresta dell'onda e soprattutto non mi sento un pesce fuor d'acqua. Vorrei infine parlarvi della famiglia dei pesci tetrodontidi. Nei tetrodontidi la maggior parte farebbe difficilmente credere a prima vista di non essere artificiale e fabbricata con un qualsiasi materiale, in stoffa per pigiama, in pelle di ghepardo o, i più belli, in cuoio marocchino. Hanno un'aria talmente imbottita, gonfia, informe, delle specie di otri, ma sono degli otri rabbiosi. Appena ce n'è uno tra di loro, un po' stanco o malato, si raggruppano, lo prendono, alcuni per la coda, altri per le pinne anteriori, e lo tengono saldamente, mentre il resto del branco gli stacca dei pezzi di carne dal ventre finché ce n'è. È la loro grande distrazione. Non ne vedrete uno tra di loro che abbia la coda intera. C'è sempre qualche affamato pronto a darti un morso prima che tu abbia il tempo di girarti. Angela piange perché non sa parlare, perché non sa nessuna lingua e si sente muta. Intuisce che una catena stringe il suo silenzio a un'esplosione di volti, il suo balbettio a un passato che appena conosce, tormento privato che non si può neanche raccontare, tanto è comune e sordo. Sono venuti due fiumi, uno bianchissimo, a sinistra, vasto fiume di luce bianca. L'altro, rapido e magro. Uno era una donna vestita di chiaro, l'altro un'arma da taglio. Uno m'accarezzava i capelli, l'altro tagliava la gola. Perché vivere qui? Chiede ogni voce che ammira sgomenta la nostra rovina. Perché insistere in una lotta assurda, in una sfida ormai priva di senso? Abbiate cura degli argini, se ancora lo potete. Zatroszcie się o brzegi i koryta, jeżeli nie jest zbyt późno. Custodite i muri, i confini fragili. Otoczcie opieką mury i ściany ze szkła. Oltre paura e furia. Za nimi jest strach i furia. Anche questo dunque ci vorreste levare, ipocriti, compagni di disastro. Eppure parla, eppure sa di non saper parlare. Per questo scoppia in lacrime nell'ora di biologia davanti alla lavagna. Uno cantava, l'altro aveva fame. Sono venuti dei fiumi, io ero il mare o l'abisso. Settembre. Anche settembre può spezzarsi attorno a un tavolo di bar. Quattro bancari strepitano per via di un sette bello una primiera. E intanto arriva esile il figlio del mazziere, biondo, nella luce del primo giorno di scuola. I toast li ho già ordinati, anche la coca, e li ho già anche pagati. E costate un bel tot fra te e tua madre. Dice l'uomo seduto al figlio in piedi. Il padre con tagliori smazza e ride. Accanto il figlio rigido guarda il mondo, uno che parla dentro un cellulare. Adesso sono piuttosto occupato, risolviamo la faccenda più tardi, allora ciao. Un altro che sbraita per colpa di una donna mal giocata, e poi la madre sopraggiunge a rovinare la mano più bella. Sorride persa e chiede se ci sono novità. Sento che tu stai combinando cose di cui ti vergogni. Ecco perché fai così. Non ci credo che tu vada tutte le sere al cinematografo, come vorresti darmi a bere. La gente non va continuamente al cinematografo. Io non torno la mattina alle due. Vieni a casa che barcolla. Parla da solo come un pazzo. Dorme 3 ore via al lavoro. realizzato che non ce la faccio più. Che diritto hai di giocare con l'impiego? Di giocare con la sicurezza di tutti noi? Come facciamo a tirare avanti se tu... Oh, senti! Credi che io vado in estasi per il magazzino? Che mi voglio sposare i calzaturifici riuniti? Che butti 55 anni della mia vita là dentro, in quella cantina al linoleum? Con le lampadine al neon. Guarda, piuttosto meglio che qualcuno pigli una vanga e mi sfondi il cervello, piuttosto di andarci ogni mattina. E ogni volta che entri dentro con quel tuo... Sveglia l'ora, sveglia l'ora. Mi dico... Beati morti. Ma mi alzo e ci vado. Per 50 dollari do via tutto quel che sogno io. Per 50 dollari al mese do via tutto quel che sogno di fare, di inventare. E tu? Che egoista, non sei altro che egoista. Pensi solo a te stesso. Ah sì, mamma. Se io pensassi davvero solo a me stesso, sarei dove è andato papà. Dove arriva il più lontano dei piroscafi. Dove vai? Vado al cinematografo. Non ci credo, è una bugia. Ok, mamma. Vado in una fumeria d'oppio. Vado nel covo dell'oppio, del vizio, della malavita. Musica. Mamma. Sto con la banda di Al Capone e faccio l'assassino percentuali e porto un mitragliatore in un astuccio di violino. Mi chiamano... Lo sventratore. Wingfield, lo sventratore. Conduco una doppia vita. Semplice, onesto, impiegato di giorno e di notte sono lo zar dei bassi fondi. Penetro nelle tane da giuoco e dilapido intere fortune alla roulette. Porto un occhio bendato e i baffi finti e certe volte le basette verdi. E in quelle occasioni che mi chiamano il diablo. Mamma, se ti raccontassi certe cose non dormiresti più la notte. I miei nemici stanno per minare la casa. Oh, e una di queste notti ci faranno saltare tutti quanti per aria e io godrò. Sì, io godrò come un matto e anche tu godrai e salirai. E salirai, salirai fino a quando sarai solamente un puntino lontano. Guardateci e ammirate. Abbiamo piume azzurre e velenose. Guardateci e ammirate. Abbiamo piume azzurre e velenose. Al doganiere dichiaro una scatola domaltina, frutta secca e piselli sottovuoto. A mio modo solenne poi due bottiglie di vino. Notti e notti, negli occhi e tra le mani, i sottili strumenti del piacere. Taccio invece di te, della tua foto nascosta tra i documenti. Annuisce contento, mi crede sano. Se potessi scegliere un gesto, un luogo e un'ora, l'ora sarebbe una sera d'aria tesa. E luogo sarebbe un luogo qualunque, una baracca in curva, una pausa appena accennata di qualcosa, calda, bassa e fumosa, dove seduto a un tavolo, toccando una spalla, una mano o un bicchiere, prenderei tempo, prima di alzarmi e inseguire qualche sconosciuto, fuori! Siamo i viandanti della pianura, i malandanti, inauditi premiamo i confini, disperati. La pallina metallica di un flipper. Urtafunghi rimbalza via. Verso altri funghi metallici. Altre luci cattive. Senza sapere che mano la spinge. Che volontà crudele. Che follia. Che volontà crudele. Che follia. Che volontà crudele. Che follia. Che volontà crudele. Che follia. Che volontà crudele. Che follia. La favola, ragazzi, che vi voglio raccontare è la storia di una pupa che sapeva cosa fare. In giro la notte, da sola nel bosco, il suo nome era Cappuccetto Rosso. Era una sbarbina dal capello corto biondo, lavorava sostituta commessa alla standa. Abitava in una vecchia casa occupata, coi soffitti di marzapane e le finestre di cioccolata, con Hansel e Gretel, due punk meridionali, e un gatto sadomaso con gli stivali. Va, Cappuccetto Rosso, nella metropolitana, a trovar la nonna che vive lontana. La nonna è una tossica che si fa di pensione. Han provato a farla smettere con il metadone, ma invano, non riesce a stare senza. Se non ha la pensione, va in crisi d'astinenza. Ed ecco nel metrò, da un cunicolo cupo, salta fuori un tipaccio con la faccia da lupo. Si chiama Nero Wolf e fa lo spacciatore. Spaccia anche tamarindo se trova un compratore. Le dice: ehi cappuccio, dai fermati un pochino. Cosa tieni dentro quel tuo canestrino? Cocaina, morfina, ero, roipnol, prazene? Su, dillo al tuo lupo e si fa un business insieme. Ma cappuccio certo non si lascia spaventare. Gli dice: vaffanculo lupo, hai preso male. E gli molla un calcio nelle balle sotto pancia. Che lupo lupone ulula come un'ambulanza. Poi arriva dalla nonna, che l'aspetta da 3 ore. Inchiodata davanti a un gran TV colore. La trova già a letto e la vede un po' strana. Le sembra un po' cambiata la vecchia carampana. Ehi nonna, che mani grandi! E per usare meglio i miei 3 telecomandi. Ehi nonna, ma che occhi bestiali! E per vedere meglio i miei 106 canali. Ehi nonna, ma c'hai il pelo nelle orecchie? È la nuova moda autunno-inverno per le vecchie. Ehi nonna, hai il berretto da carabiniere. Porca miseria, ci han scoperto, brigadiere. La sedicente nonna solleva la coperta. Spuntan 6 teste di cuoio con il mitre con la berta. E prima che Cappuccio possa dire cosa fate, l'han già fatta secca con 50 smitragliate. Cercano nel canestrino materiale da eversione. Ehi capo, niente armi, soltanto una pensione. Peggio per lei, non si gira nel bosco mascherati di notte con il cappuccetto rosso. La favola è questa, non fate i moralisti. C'è sempre un po' di merda in tutti i repolisti. Le streghe e i draghi si fanno la plastica, le belle addormentate le sveglia la lavanda gastrica. E 1, 2, 3... non per sempre, felici e contenti, soltanto i bambini molto obbedienti. Mi contraddico, e vabbè mi contraddico, sono vasto, contengo moltitudini. Ho visto le miglioramenti della mia generazione, distrutte da pazzia. Morir di fame isteriche nude, strascicarsi per strade negre all'alba, in cerca di una pera di furia. La gente mi è indifferente. Io non bevo per uscire, bevo per avere lacrime da versare. I miei amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai che ho già regalato, e lo stesso quei 2 peli d'elefante mi fermavano il sangue io dati a un passante. Bevo per affogare i ricordi, ma i ricordi sanno nuotare. Che ho fatto di male? Perché la vita mi ha fatto così? Io non merito nulla, figuriamoci il sole. Vorrei scomparire come la neve al sole. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati. Bevo ancora, ma i ricordi sanno nuotare. Come dimenticare l'amore? Impossibile se ami. In questi mesi abbiamo tentato di esprimere in questa forma il teatro, quello che crediamo sia il desiderio principale di ogni uomo e di ogni donna, che è amare ed essere amati. Abbiamo tentato di esprimere la nostra paura quando ci rendiamo conto che spesso corriamo nella direzione opposta senza saperci fermare. Abbiamo anche tentato di esprimere il nostro disagio perché vivendo accanto all'emarginato, al precario, spesso non sappiamo come fare per aiutare, per dare una mano. Questo è il risultato, è buono senz'altro per noi perché facendo teatro siamo riusciti ad amarci. Grazie amici perché stando assieme le mie piume hanno perso in buona parte il loro veleno, così che il mio cuore ha potuto ricominciare a sperare e a sognare. Un sogno fragile, ma come le nostre piume, azzurro, azzurro cielo. Allievi, li incontro sulle piazze o in qualche bar, li riconosco quasi sempre e penso cosa diventano adesso tutti quegli occhi, quelle dita, carburatori, cravatte, certi timidi, altri perfino odiosi e i devastati, quelli che leccano l'asfalto e infine anch'io che ho in mano cetrioli e carta igienica. Viaggio precario, il viaggio è quello della vita, precario perché non si può sapere come andrà. Fin qui il mio viaggio, la mia vita è stata strana perché gli scenari sono cambiati molte volte in maniera radicale. Stasera ho scelto di parlare di questo tema perché malgrado abbia acquisito un po' di stabilità e fatto delle scelte, queste scelte mi portano a vivere in modo precario, senza cioè troppe sicurezze. La cosa più precaria è il mio stato emotivo, perché anche se all'apparenza ho le spalle larghe e sopporto situazioni molto stressanti, mi accorgo di essere molto fragile, sempre molto fragile. Il mio sogno, il mio scopo nella vita è dare e ricevere amore. Amore inteso come disinteressato, non amore se o amore perché, ma amore punto e basta. Il non riuscire praticamente mai in questo mi sconvolge al punto che la mia stabilità emotiva ne risente di nuovo e questo mi fa paura. Quando mi accorgo che mi aspetto in cambio del mio affetto e della mia gentilezza, amore, considerazione, apprezzamento, lì vedo quanto sono distante dal mio sogno e quanto in fondo i miei sforzi siano poco efficaci. So e credo che la vita, questo viaggio, è come un grande ballo e tento di danzare con quanta più grazia mi è concessa, aspettandomi così che altri che hanno completamente smesso, rinunciato al ballo, si rimettano a danzare, attirati dalla bellezza e dall'amore. Spesso però non funziona e anch'io sono tentato di rinunciare. Alle volte penso che questo mio sogno sia la cosa meno sicura, più precaria in assoluto come stile di vita. Però continuo, perché so che è l'unica maniera di vivere giusta ed è l'unica certezza che ho. Fiume in piena. E qui si passano i giorni sulla riva. Le mani in tasca. Si osserva. Cresce ancora? Non c'è molto da vedere. La pianura. Dietro e davanti e ovunque. E in mezzo al fiume, denso di schiuma e fango. I sacchi di sabbia sugli argini, va bene, ma dentro un altro argine è caduto. Thank you. this is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. Conosce i pesci solo guardando questo acquario ne avrebbe un'idea singolare, tuttavia abbastanza giusta nell'insieme. Saprebbe che né la forma, né i colori, né l'aspetto caratterizzano un pesce. Un cappello, una valigia, uno sgabello o una penna potrebbero essere un pesce. Tutto dipende da com'è intimamente. Io osservo i pesci. Osservo le loro anime e leggo i loro sogni e poi li faccio entrare nei miei sogni. La gente pensa che i pesci siano stupidi, ma io so che non è vero, perché loro sanno sempre quando stare zitti. A cura di www.scatolanera.ch.